America 24 di Mario Platero. Good morning, David. We've seen a staggering number in the deficit projection. What is your reaction to that? Well, good morning, Mario. My reaction is that we can't keep on doing this. The U.S. government's living beyond its means. Eventually, we've got to get spending under control. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Cifre spaventose, dice David Wyss, il capo economista di Standard & Poor's, che abbiamo intervistato. Cifre spaventose ovviamente per il bilancio americano, che è stato annunciato nei suoi dettagli ieri mattina dal presidente Obama. Disavanzi record, 1.600 miliardi per il 2010, il 10,6% del PIL, circa 1.300 miliardi per il 2011, l'8% del PIL, quasi 3.000 miliardi di disavanzo in due anni, cifre senza precedenti. Se poi le confrontiamo con le spese annuali del governo americano, 3.800 miliardi di dollari per il 2011, stiamo parlando su base annuale di quasi il 40% delle spese. Così non si potrà continuare, alla fine si dovranno riportare i conti sotto controllo, dice Wyss. Ma le proiezioni di Obama di ieri ci dicono che per il 2014, dunque una previsione ottimistica, si scenderà già a 700 miliardi di dollari di disavanzo, il 3,6% del PIL. Realistico? Well, certainly realistic from an economic standpoint. The question is whether it's realistic from a political standpoint. Realistico dal punto di vista economico, ci dice Wyss, ma non da quello politico. Anzi, da quello politico, secondo lui, sarà quasi impossibile. Il Congresso non accetterà mai di ridurre le spese discrezionarie come vorrebbe Obama, come ha proposto Obama, un congelamento di 3 anni. Soprattutto si dovrà affrontare la questione delle spese sociali per le pensioni, per l'assistenza agli anziani, che sono esplosive. Si dovranno tagliare, una sfida difficilissima dal punto di vista politico. E dunque Wyss fa un pronostico. Intanto la riforma sanitaria è archiviata. Obama ci è andato molto vicino, ma non riuscirà alla fine a portarla a casa, anche perché comporterebbe altri costi, altre spese, altre esplosioni di disavanzo. Comunque sia, nel medio termine, i problemi di finanziare questi disavanzi resteranno centrali e ci saranno, ed è questa una delle cose più interessanti, perché poi ci si concentra sempre su quello che succede all'interno di un sistema paese e non su quelle che sono le ricadute globali, che invece in questo caso ci sono, perché con disavanzi americani di questo livello le ricadute globali saranno importantissime per la Cina, per l'Europa, e ci sarà un rischio di crowding out. Well, what we worry about is that if the government keeps borrowing at this pace, it's going to basically crowd out the private sector. Crowding out, un affollamento, un termine finanziario, un affollamento che lascerà fuori qualcuno. L'affollamento sul credito del governo lascerà fuori il settore privato. Questa è la prima conseguenza di questo straordinario disavanzo americano. La seconda: dove si troveranno queste cifre senza precedenti per finanziare il deficit? In Cina, ovviamente. La Cina, lo abbiamo visto, è irritata con gli Stati Uniti per le vendite di armi a Taiwan, polemica recentissima. Dunque, in teoria potrebbe chiudere i rubinetti. Non lo farà, perché alla fine anche lei deve investire il suo surplus. E gli USA rinunceranno forse ai cinesi che chiudono a Google? Non c'è neanche da pensarci. Non possono permettersi gli americani tassi di interesse troppo elevati in casa, con il rischio di soffocare la ripresa. E non possono rinunciare al dollaro come prima valuta di riserva internazionale. Dunque, ben venga la Cina. E l'Europa deve anche lei finanziare disavanzi fortissimi. Ci sarà una concorrenza fra Stati Uniti e Europa per l'accesso a Pechino? No, perché l'euro non deve essere prima valuta di riserva mondiale, anche se alcuni lo vorrebbero, perché un forte investimento della Cina in Europa rafforzerebbe l'euro a danno delle esportazioni europee. E questo non lo vogliono le imprese e non lo vogliono i politici europei. Altro pronostico di Wyss: l'Europa guarderà prima alla Grecia, non potrà consentire un default all'interno della zona euro, la Cina può attendere. Comunque sia, il problema Cina resta. Washington e Pechino sono in polemica continua. Lo abbiamo visto al vertice sull'ambiente di Copenaghen, lo abbiamo visto nelle polemiche per i diritti di Google, lo abbiamo visto ora, negli ultimi giorni, quando l'America ha venduto 6 miliardi di dollari di armi a Taiwan e la Cina ha battuto di nuovo i pugni sul tavolo. È un gioco delle parti, in realtà, soprattutto per questa storia delle vendite di armi a Taiwan. Succede da anni ed è sempre lo stesso ritornello. La Cina minaccia ritorsioni su aziende americane che partecipano al programma. Sì, ma contro chi? Contro la Boeing, di cui la Cina ha bisogno per lo sviluppo del suo primo jet commerciale? Secondo me non ci sarà nessuna ritorsione alla fine. Odio, amore, tensioni forti sono tipiche di una relazione difficile in cui l'uno ha bisogno dell'altro. E allora, qual è l'ultima considerazione sul fidanzamento difficile fra Cina e Stati Uniti? Lo chiediamo a Marta Dassù, responsabile dell'Aspen Institute, think tank americano a Roma, e direttore di Aspenia, una rivista di politica estera. Ma io credo che sia stata sopravvalutata la possibilità di intesa in quello che abbiamo chiamato il G2. Secondo me G2 è un concetto utile se si riferisce al fatto che queste due grandissime economie hanno fortissime interdipendenze, a cominciare dalla questione del debito americano e degli investimenti cinesi a sostegno del debito americano. Se però lo intendiamo come forma di governo, diciamo così, del nuovo sistema internazionale, il G2 chiaramente non funziona. Io credo che Obama sia stato in un certo senso troppo cedevole all'inizio. Il suo viaggio di novembre in Cina è stato un po' troppo all'insegna della benevolenza, diciamo così, dell'America rispetto ai nuovi interlocutori cinesi. In fondo ha allentato un po' troppo Obama il rapporto con l'India, che è pur sempre la maggiore democrazia asiatica, e i cinesi hanno avuto l'impressione di un'America debole su cui oggi si rivalgono. Dunque, a parte l'economia e a parte la Cina, c'è forse una percezione di debolezza più generalizzata di Obama in politica estera? La questione più generale è che la politica estera in questo momento non è affatto una priorità della presidenza americana. Obama si gioca tutto, si gioca il midterm anzitutto sulla politica interna e sull'andamento dell'economia. La politica estera non è al centro della sua azione. E quindi oggi lui deve fare una specie di riaggiustamento un po' passivo, ma certamente non è un presidente che sta conducendo, almeno per ora, una grande azione internazionale. Non ci riesce, non ha interlocutori e non è la sua priorità. Ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ecco qualche spunto. Citizen Obama, il presidente ieri ha risposto alle domande da tutto il mondo su YouTube, internauti amichevoli nei confronti del presidente in crisi di popolarità, con qualche domanda scomoda però, ad esempio sul futuro politico a breve. Perché? Perché ora i repubblicani puntano persino alla conquista del seggio lasciato vacante da Obama in Illinois, e lo ha lasciato vacante per andare alla Casa Bianca, e oggi ci sono le primarie democratiche. Le vincerà quasi certamente Alexis Janulis, appena 33 anni, vicinissimo a Obama, ma debolissimo contro il repubblicano Mark Kirk. Pensate che imbarazzo se a novembre si perde anche lì. Alta, magra, slanciata, parla ma non troppo. A Las Vegas è stata presentata Roxy con 3X, già definita la miglior bambola robot per soli adulti di tutti i tempi. Per portarsela a casa bastano $7,000. È disponibile in 5 personalità: estroversa e avventurosa, oppure timida e riservata, a seconda delle preferenze. Per ora parla e capisce solo l'inglese, però arriveranno presto sul mercato anche la versione cinese e quella spagnola. Per l'italiano per ora non ci sono pronostici, ma eccoci alla canzone del giorno. Steven Tyler minaccia di denunciare gli Aerosmith. Lo storico frontman della rock band è in una clinica californiana dove si sta disintossicando per la dipendenza da farmaci antidolorifici, e i suoi compagni hanno già lanciato un concorso su internet per rimpiazzarlo temporaneamente. Dicono, il cantante ha mobilitato già i suoi avvocati, l'idea non gli è piaciuta per niente. Auguri di pace dunque agli Aerosmith, sentiamoli in Walk This Way, quando erano più felici insieme. She told me to walk this way. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!